Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi mi farò largo tra i turisti. Sono nei Musei Vaticani, dove, come sapete, la frequenza di turisti è molto alta. In un anno arrivano 6 milioni di persone. Sono venuto qui perché voglio consigliarvi di fendere la folla per andare a vedere una cosa meravigliosa, cioè la nuova illuminazione offerta dalla Osram alla Santa Sede delle cosiddette stanze di Raffaello, cioè uno dei nuclei più importanti di tutti i Musei Vaticani. Cosa sono le stanze di Raffaello? Sono semplicemente l'appartamento pontificio che Giulio II della Rovere all'inizio del Cinquecento volle farsi approntare, perché era stanco di abitare nell'appartamento al piano di sotto dove stava il Papa Borgia. Giulio II odiava questo suo predecessore con tutto il suo cuore. A un certo punto non sopportò più di stare nell'appartamento che peraltro il Papa Borgia aveva fatto decorare da Pinturicchio solo qualche anno prima. E quindi sale al secondo piano del palazzo e qui per sé si tiene una cameretta, una piccola anticamera. Il Papa viveva in spazi molto piccoli, però vuole quattro stanze di rappresentanza meravigliose: la sala di Costantino per i banchetti, la sala di Eliodoro per le, diciamo così, le udienze private, poi la sua biblioteca, la stanza della signatura, la sua biblioteca privata, e poi per firmare naturalmente i brevi pontifici la sala dell'incendio di Borgo. Ecco, questa sequenza di sale raccolgono tutti i più grandi capolavori di Raffaello. Pensate alla scuola di Atene, pensate alla disputa del sacramento, alla messa, di tutti affreschi che conoscete benissimo, ma oggi noi li vediamo ammantati di luce in un modo straordinario, perché la nuova illuminazione è fatta con i LED che sono nascosti in piccoli totem, che sono poi i totem dove ci sono le spiegazioni, e là non si vede la fonte di luce perché la luce è nell'aria. L'impressione è che l'aria si sia incendiata di luce e vada a depositarsi sugli affreschi. Guardate, è un'esperienza emozionante. Fatevi largo nella folla, ma arrivate fin lì.